avanti, avanti sul canale 10, chi c'è? Aiuto, che mi serve un controllo. Avanti pure il controllo, buongiorno. Avanti sul 10. Chi è avanti? Avanti, chi c'è sul 10? Ciao, buongiorno, ti posso dare Santiago 5, Radio 4, è abbastanza comprensibile. Chi sei che mi arrivi a livello QRM? Livello QRM, tu dove sei? Sono a Sassa. Chi sei l'amico? Ora. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno all'ascolto. Canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola. Allora, questo qui vuole così. Hola. Thank qualcuno qua? Attenzione 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione canale 10. Attenzione CQ10, c'è qualcuno in ascolto? C'è qualcuno qua? C'è qualcuno qua? CQ10. CQ10, c'è qualcuno in ascolto?